L'altro pianeta di Laura Bettini. Bentornati all'altro pianeta, il pianeta della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente non solo fuori casa, ma anche dentro. E quindi non potevamo mancare l'appuntamento con il Salone del Mobile che è in corso a Milano e che festeggia un compleanno importante nel 2011. 50 anni. Al di là del bene più prezioso. Il primo salone infatti si svolse proprio nel 1961, pochi mesi dopo il trionfo di questa canzone cantata da Betty Curtis a Sanremo, anche se più che quella canzone del 1961 oggi ricordiamo la seconda classificata. Con 24.000 baci, felici corrono le ore. 50 anni dopo, comunque, il COSMIT, comitato organizzatore del Salone del Mobile Italiano, è ancora al lavoro ed è ancora espressione di Federlegno Arredo, che attraverso il Salone promuove uno dei settori trainanti del Made in Italy, tanto che negli anni sono nate, a corollario di questo Salone, Euroluce, Salone Ufficio, Eurocucina, Salone Internazionale del Bagno e poi anche Salone Internazionale del Complemento d'Arredo e Salone Satellite, quello che coinvolge mezza città. Insomma, una crescita continua in cui negli ultimi anni si fa spazio anche il tema della sostenibilità. Enrica Foppa Pedretti, che è presidente della Commissione Ambiente di Federlegno Arredo, ci ha detto che l'attenzione per l'ambiente da parte delle aziende italiane è in continua crescita. Si fa attenzione ai processi produttivi, ma anche ai materiali, e per questo si moltiplicano le certificazioni di qualità e origine. Al momento non ce ne sono di italiane, sottolinea Foppa Pedretti, ma ci si sta lavorando perché il mobile italiano di qualità possa essere anche certificato per la sua sostenibilità nel processo produttivo e nei materiali. Al momento quindi però ogni etichetta che trovate sui prodotti, sui mobili e sui progetti è straniera e quindi se volete sapere cosa certifica dovete ingegnarvi un po' con internet. Adesso è il momento di fare un piccolo giro al salone. Attenzione, non vi stiamo segnalando né i migliori né gli unici espositori sostenibili, ma solo idee di sostenibilità che arrivano dagli imprenditori italiani. Iniziamo con Slide, un'azienda che produce oggetti e mobili luminosi in polietilene pensati e disegnati da grandi designer. Sentiamo Giuseppe Colonna Romano. Noi utilizziamo polietilene. Il polietilene è un materiale, una resina plastica molto semplice da riciclare e noi stessi utilizziamo dei prodotti riciclati, del materiale riciclato, soprattutto per i colori più forti, che, più scuri, che non hanno problematiche di colori misti di partenza. Quindi i prodotti sono fatti con materiale riciclabile e riciclato in alcuni casi. Quindi uno per assurdo potrebbe anche poi dopo, una volta volesse disfarsene, dare certo, questi... Certo, e anche internamente l'energia necessaria per produrre questi prodotti è abbastanza bassa, usiamo semplicemente gas ed è tutto un ciclo produttivo molto, diciamo, che rientra nella ecosostenibilità del sistema. Per curiosità, dove producete? Noi produciamo a Buccinasco, vicino alle porte di Milano. Nel caso del Salone del Mobile faranno poca strada, insomma, questi mobili. Sì, certo. Senta, l'aspetto invece della luminosità. Abbiamo sempre utilizzato delle lampade fluo compatte, a basso consumo energetico, che sono ora diventate obbligatorie, che hanno sostituito completamente le lampade a incandescenza. Oltre a questo abbiamo introdotto dei sistemi LED che sono ancora più parsimoniosi nei consumi e hanno una durata molto più lunga per quanto riguarda le lampade stesse. In occasione di fiere e convegni sarete tutti tornati a casa con la borsa piena di cataloghi e volantini. Quanta carta sprecata, diciamo sempre senza pensare, specie nel caso dei cataloghi, a quanta fatica e quanto dispendio energetico umano, ma non solo, ci sono dietro a un catalogo. E su questo insiste lo studio USEI, un'azienda che si è impegnata nel settore della fotografia virtuale in 3D, che in questi giorni di salone propone alle altre aziende di realizzare i loro cataloghi con immagini elaborate al computer, con un risparmio, sostengono alla USEI, di 4 tonnellate di CO2 per ogni catalogo da mettere in produzione. Come into the world, my child. E ora dalla luce dei mobili slide passiamo ad altre luci, perché quest'anno il Salone del Mobile ospita anche Euroluce. Il nostro Fabio Pisano ha incontrato e intervistato Alessandro Sarfatti, amministratore delegato di Luceplan, che ha come slogan il simpatico Led by Ideas, che ha un doppio significato, perché non solo allude ai LED, ma anche significa condotti, portati avanti dalle idee. I LED che hanno questa grande capacità di fare luce con pochissima energia, ovviamente aiutano questa direzione e infatti quasi tutte, mi sembra, le nostre lampade nuove sono progettate con questa sorgente, ma noi ci spingiamo oltre, perché abbiamo anche fatto una lampada che, oltre a fare luce, assorbe anche il suono, ha un materiale fonoassorbente. Lei mi dice: ma cosa c'entra con il risparmio energetico? C'entra perché negli uffici e anche nelle case il maggiore consumo di energia è dato dai sistemi di raffreddamento e di riscaldamento, e quindi che solitamente vengono dal soffitto, quindi i soffitti sono, come dire, occupati da sistemi di riscaldamento e raffreddamento, mentre l'inquinamento acustico è un fattore che è importante nella nostra qualità di vita, e credo quindi che abbinare la funzione luminosa tradizionale per noi a quella della fonoassorbenza è un'altra risposta nella direzione del risparmio energetico. Dice Enrica Foppa Pedretti, presidente della Commissione Ambiente di Federlegno, che non solo c'è ancora troppa confusione nelle certificazioni di sostenibilità nel suo settore, ma c'è anche un bel po' di confusione nella testa dei consumatori, che strattonati di qua e di là alla fine non sanno più a cosa credere e non sanno nemmeno cosa chiedere. Sono in buona misura le stesse critiche di Carlo Urbinati Ricci, AD di Foscarini, che in più critica anche in generale l'approccio al tema della riduzione dell'impatto ambientale. Io credo che ci sia una grande confusione anche a livello del consumatore finale, di quello che acquista, che non capisce più cosa sta comprando. E questo noi lo vediamo anche perché il mercato è stato assolutamente posto in una condizione di grandissima confusione. Ci sono sul mercato lampadine cosiddette a risparmio, che, su cui poi potremmo aprire altri ragionamenti, perché lampadine a fluorescenza in realtà alla fine, fatto un equilibrio generale, non sono affatto a risparmio, quindi anche quello è un grande inganno. Ma soprattutto ci sono lampadine che sono di qualità assolutamente infima, spesso pericolose addirittura, di sicuro non all'altezza tecnologica di quello che un nostro, per esempio, acquirente può aver acquistato. Noi lo vediamo perché abbiamo delle persone che si mettono in contatto addirittura con noi sostenendo che le loro lampade non forniscono più le stesse prestazioni che erano abituati a vedere, o hanno degli effetti collaterali da tutta la parte elettronica che non erano abituati a sentire, perché c'è stata questa grande confusione sul mercato e quindi uno compra quello che trova. E con questo non voglio dire che i temi del risparmio energetico o dell'attenzione non ci interessino, anzi, ripeto, noi viviamo anche noi su questo pianeta, solo che non ci sembra che la strada che è stata imboccata abbia un grande senso, né dal punto di vista pratico, perché il bilancio energetico alla fine mi sembra che non sia affatto vantaggioso. Siamo sempre molto sorpresi che si sia cominciato dall'illuminazione invece che da altre voci che sono responsabili di ben altri impatti su questi temi, e quindi, diciamo, mettendo insieme un po' di cose rimane un po' difficile credere che non ci sia proprio qualche cos'altro di dietro. E sempre in tema di luce, Fabio Pisano ha incontrato e intervistato Toshiyuki Kita, famoso designer giapponese che per gli irriducibili amanti delle forme delle vecchie lampadine ha disegnato Denkyu. Questa forma sembra quella della lampadina, ma lampadina oggi, grande illuminazione cominciando, è quella LED. Quella LED è quella meno 10 volte come consuma, poi 10 volte più lunga come la vita di quella lampada. Io pensavo, come ricorda lampada della storia? La forma ha fatto così, si chiama Denkyu. Denkyu vuol dire lampadina. Chiudiamo il capitolo Euroluce, adesso andiamo fuori salone per incontrare la Stone Italiana. L'hanno chiamata l'azienda che seduce i VIP per i pavimenti e i rivestimenti su misura fatti tra gli altri per Giorgio Armani. Per fortuna sono più alla mano di molti VIP però. Silvia Della Valle, responsabile del settore ricerca, ci parla di DNA urbano, il pavimento fatto di ghiaino stradale. Andai io e il mio collaboratore responsabile del laboratorio a visitare questo grande centro di discarica che è la CEM Ambiente, tra l'altro appunto in zona in Lombardia, in zona Milano, per cui abbiamo fatto tutta questa bella visita in cui abbiamo scoperto tra le altre cose questo impianto in cui si pulisce il ghiaino che viene raccolto dallo spacciamento stradale. E così ho detto, mi dia un sacchetto di questa cosa, proviamo a vedere cosa ne esce. Abbiamo visto che oltre ad essere compatibile con il nostro impianto, che poi è il primo step, no? Oltre a questo abbiamo visto che anche il risultato estetico è interessante, per cui abbiamo deciso di andare avanti. Dico anche che questo è il caso in cui noi abbiamo in percentuale più materiale riciclato per esterni, per pavimentazioni esterne, addirittura il 70%, 75%. Questo è ovviamente un risparmio per l'ambiente, perché appunto non si va a cercare materiale nuovo nelle cave, si utilizza quello che c'è, non si deve smaltire. Assolutamente. Ci sono un sacco di risparmi per l'ambiente. Per voi com'è utilizzare materiali di questo tipo? Abbiamo fatto una valutazione veloce, però in realtà i punti salienti sono stati toccati. A noi interessa sapere se questo materiale è disponibile e quindi abbiamo appurato che comunque il materiale c'è, la terra di spazzamento esisterà sempre, si tratta solo di capire quali e quanti sono gli impianti che possono prevedere questo tipo di trattamento. E mi diceva il signor Nardella che in Italia ne stanno facendo un altro oltre al loro, e ce ne sono in Europa. Noi solitamente per le materie prime ci forniamo in tutto il mondo, per cui non sarebbe comunque per noi un problema. Fuori salone c'è spazio anche per i costruttori sostenibili, come quelli del biomattone Equilibrium, ottenuto dalla combinazione della parte legnosa dello stelo di canapa con un legante a base di calce. Si usa per costruire o ristrutturare. Il general manager Paolo Ronchetti. I vantaggi di questo materiale sono tantissimi, a partire dall'alta capacità isolante, sia dal punto di vista termico che dal punto di vista acustico. Insomma, questo è un materiale proprio per l'alto contenuto di canapulo, quindi legno di canapa, che è un materiale che è composto da moltissimi micropori al suo interno, quindi c'è molta aria al suo interno, riesce ad isolare molto sia durante l'inverno, che dal punto di vista termico, sia durante l'inverno che durante l'estate. Altra caratteristica di questo materiale è la sua capacità di funzionare come polmone per quel che riguarda l'umidità all'interno dell'edificio, sempre per la capacità della canapa di assorbire fino a 10 volte il suo peso in termini di umidità, di vapore acqueo. Questo materiale, quando utilizzato nelle pareti perimetrali dell'edificio, cosa fa? Assorbe umidità dall'interno dell'edificio, l'umidità in eccesso, e poi la rilascia quando invece ce n'è più bisogno. In Italia però, dice Ronchetti, di canapa non se ne produce più e quindi per ora tutto arriva dalla Francia. In Francia sono 20 anni che questa tecnologia viene utilizzata in edilizia, per la costruzione e la ristrutturazione di edifici. In Francia c'è un'altissima disponibilità di materia prima, quindi di canapa, ma soprattutto c'è esperienza sia a livello di produzione che a livello di applicazione di questo materiale, quindi ci sono tutte le certificazioni, e abbiamo preferito entrare sul mercato italiano con un prodotto o con dei prodotti francesi, per poi creare la domanda necessaria e sufficiente che giustifichi poi una produzione a livello locale. L'altro pianeta. Eccoci qui dopo le informazioni sul traffico. L'altro pianeta prosegue adesso, come di consueto, con l'intervista di Cristina Carpinelli. Questa settimana un uomo dal multiforme ingegno, attore, autore teatrale, musicista, cantante, è Monio Vadia.

far passare a livello diffuso, a livello di massa, un cambio di sguardo, proprio un cambiamento di sguardo, di concezione del mondo. Senta, se lei dovesse proprio in una battuta secca descrivere la Terra, che parole userebbe? Un groviera, tragico groviera. Questo pianeta è troppo piccolo per quello che gli stiamo facendo. Grazie Cristina Carpinelli per la sua intervista. Andiamo all'altra nostra rubrica. Articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana, che dice: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Il microfono a Marco Carminati. Buongiorno da Marco Carminati, eccoci nello spazio dedicato al FAI, al Fondo per l'Ambiente Italiano. Abbiamo in collegamento con noi oggi il vicepresidente del FAI, il dottor Marco Magnifico. Buongiorno dottor Magnifico. Buongiorno a lei e a tutti voi che ci ascoltate. Ecco, allora oggi un altro itinerario, un altro problema del patrimonio artistico che voi del FAI monitorate con un'attenzione davvero particolare ed encomiabile. So che una delle vostre fonti migliori è l'iniziativa I Luoghi del Cuore. Ogni anno chiedete agli italiani di segnalare quali sono i luoghi del cuore e vi si prospettano davanti veramente una quantità di storie, di vicende, di luoghi straordinari. Quindi siete molto privilegiati da questo punto di vista. Lei ci vuole, mi pare, raccontare proprio uno di questi luoghi del cuore. Certo, è una geografia dell'Italia, è una geografia storica, culturale e ovviamente del cuore, che è curiosa quella che ogni due anni, quando facciamo questo censimento, salta fuori. Quest'anno ne sono venute fuori tante, ma questa mi è particolarmente cara. È il terzo luogo intanto classificato, ha avuto 19.200 segnalazioni ed è una piccola chiesa che se fosse a Torino forse non salterebbe tanto all'occhio, ma essendo che si trova a Lucca è veramente speciale. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'architetto che la costruì nel 1738 era un allievo dello Juvarra, tale Francesco Pini, non forse famosissimo, ma che realizzò, come dire, una specie di straordinario salotto ellittico, fastosissimo, ricchissimo, scenografico, sembra più di entrare nel grande salone centrale di Stupinici più che in una chiesa. Certo. E difatti Mario Tobino ne parlò di questa chiesa dicendo che è come una danza, è un recitare di attrici, di aprirsi e chiudersi di ventagli, è piccola, è un salotto, è la grazia del Settecento. Ecco, e purtroppo questa chiesa però è chiusa al pubblico. Ecco, questo è, veniamo al dunque, perché tanto entusiasmo, ma noi sappiamo che voi se andate a cercare e segnalate anche i casi difficili, e questo è un caso straordinario, come ci diceva lei, in una città medievale fatta di monumenti romanici, soprattutto di mura, trovare una delizia del Settecento, la quale delizia evidentemente, come lei ci ha appena accennato, ha qualche problema di sopravvivenza e di conservazione. Cosa sta succedendo nella chiesa di Santa Caterina, mi pare si chiami, no, questo edificio? Si chiama proprio Santa Caterina, ecco. E oltretutto è una storia anche importante, perché era la chiesa delle sigaraie, così perché di fronte c'è la manifattura tabacchi, per cui le sigaraie, quando il mondo era pio, andavano, prima di entrare a lavorare, andavano tutte a dire un'Ave Maria. Ecco. Fatto sta che questa chiesa, finita la manifattura tabacchi, sparito questo mondo pio che non esiste più, e ecco, questa chiesa si è chiusa. È sconsacrata, è del comune di Lucca, il comune non ha soldi, forse anche perché, se posso dire, non sa di avere in mano questo minuetto del Settecento in mezzo a tanti canti gregoriani, non so come dire, certo. Ne parlava del rapporto tra Settecento e Medioevo, e quindi non l'abbiamo segnalata noi, c'erano segnalati i lucchesi, 19.000 lucchesi hanno preso carta e penna e hanno detto: salvatela questa chiesa. Allora noi abbiamo detto al sindaco: noi qualcosa potremmo anche fare, volentieri, se ce la fidate, magari pensiamo a prenderla in gestione, a farci un luogo di incontri, di piccole conferenze, un punto FAI dove la gente si può trovare in mezzo a tanta grazia e a tanta fastosità e a tanta magnificenza. Però naturalmente bisogna che il comune la metta a posto. Ecco. Il tetto va giù, naturalmente. Certo. Quindi se il tetto lascia entrare l'acqua, si disfano questi affreschi meravigliosi, è tutta frescata dentro, naturalmente è tutta trompe-l'œil, quindi con finte cupole, finte finestre, finti fasci di luce che entrano. È veramente un luogo felice, ecco, ed è peccato che questo luogo felice sia in tanta infelicità, perché è chiuso. chiuso, umido, piove dentro, si sono rotte le finestre, entrano i piccioni, fanno la pupù, insomma ecco, è uno dei tantissimi capitoli di questa Italia stupefacente, dimenticata da chi la possiede e chi dovrebbe tutelarla, ma per fortuna ricordata a noi e quindi attraverso oggi lei a tutti gli ascoltatori da 19.000 lucchesi che hanno detto non vogliamo che si perda. Ecco, allora speriamo che la chiesa di Santa Caterina nel cuore di Lucca, questo gioiello del Settecento in una città che col Settecento ha poco da spartire, quindi un unicum architettonico per questa bella città della Toscana, possa avere un futuro, trovare un futuro. Lei faceva subito riferimento al fatto che la necessità è che ve la consegnino restaurata, quindi questo è il primo passo sicuramente da sollecitare e 20 e rotti mila cittadini di Lucca sono d'accordo, quindi speriamo che questa massa notevole di opinione possa aiutare ad arrivare a questo risultato. Poi interverrà il FAI con la sua esperienza, con la sua capacità di valorizzare questi luoghi, appunto aprendola naturalmente al pubblico e facendone un luogo di aggregazione culturale e di grande qualità. Io la ringrazio molto, dottor Magnifico. Grazie. Grazie a lei, grazie e alla prossima gita. E alla prossima gita con gli amici del FAI alla scoperta delle bellezze ma anche delle difficoltà del nostro bel paese. Grazie a tutti per l'ascolto, l'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Vi ricordo, prima di chiudere, per scriverci l'altropianeta@radio24.it oppure laura.bettini@radio24.it.